sei restare fermo, forse dovrei invece agire. Forse non so chi sono, ma te forse ti dico chi sei per me. Un fiore sei per me. Dovrei aprire gli occhi. Forse stavolta è quella giusta. Forse batto più forte la testa. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Se ancora yeah.